Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dodici minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: non c'è solo la Catalogna, anche se alle 18 inizierà questa manifestazione con centinaia, stante le attese, le previsioni, centinaia di migliaia di persone, manifestazione pacifica contro gli scontri e contro la violenza dopo quello che è successo domenica. Ma dicevo, non c'è solo la Catalogna a agitare l'Europa, perché da un lato, come scrive oggi Adriana Ceretelli sul Sole 24 Ore, se l'Europa rimane a guardare, il titolo è "Se l'Europa rimane a guardare", poi ne parleremo. Insomma, c'è un'Europa che sta alla finestra, non dico che abbia una posizione pilatesca, perché ha detto è un tema interno alla Spagna, per noi esiste lo Stato spagnolo, però è una posizione molto imbarazzata, mettiamola così. Ma non c'è solo la Spagna, non c'è solo la Catalogna per l'Europa oggi, perché nel frattempo va avanti, si fa per dire, la Brexit. Oggi il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nella plenaria del Parlamento europeo, dove sarà votata una risoluzione riguardo alla Brexit, ha detto: non possiamo ancora parlare di relazioni future. E poi ha aggiunto: nei negoziati per la Brexit non abbiamo fatto ancora il progresso richiesto. Quindi nessuna, diciamo, possibilità in questo momento di anche immaginare le relazioni future con la Gran Bretagna, che non è una buona notizia. Michel Barnier, il capo negoziatore della Commissione europea, ha detto: restano divergenze serie, in particolare per quanto riguarda il regolamento finanziario. Non accetteremo di pagare in 27 ciò che è stato deciso a 28. E qui c'è tutto il tema dei soldi che la Gran Bretagna deve a Bruxelles. Non c'è ancora un accordo sui punti chiave, non abbiamo raggiunto progressi sufficienti per iniziare una nuova fase di negoziati. Insomma, lo stallo non è uno stallo da poco. Devo dire che noi, che abbiamo spesso criticato l'Europa in questi anni per la gestione, per esempio, della crisi greca e della seconda recessione dell'area euro, questa volta onestamente chi non ha, a mio avviso, ben capito che tipo di Brexit vuole è proprio la Gran Bretagna. Al di là della posizione dei Labour, ma la stessa Theresa May ondeggia tra una Brexit dura e una Brexit più morbida, dice, come ha detto a Firenze, che saranno rispettati i diritti dei cittadini britannici in Europa, dei cittadini europei in Gran Bretagna, ma non si capisce ancora come. Il tema di quanto la Gran Bretagna deve pagare è un tema molto serio, ci sono degli accordi presi, tu puoi uscire, ma paghi il dovuto. Insomma, a me sembra che la confusione in questo caso aleggi soprattutto in Gran Bretagna, e devo dire che Bruxelles fa bene a tenere la sua posizione. Non è stata una decisione unilaterale britannica, vai a un negoziato, ci sono delle cose da pagare, non puoi pensare che l'Unione Europea sia un taxi in cui scendi quanto vuoi, ma almeno anche nei taxi, se scendi quando vuoi tu, paghi comunque la corsa, mettiamolo in questo modo. Per quello che riguarda invece i temi di carattere italiano, ci occuperemo del DEF, o meglio di quanto oggi è stato detto in audizione parlamentare sul DEF, il documento economico finanziario che serve come testo base per scrivere la legge di bilancio, come si chiama adesso la manovra finanziaria. La manovra lorda parte da quasi 20 miliardi di euro, 19,6, 10, quasi 11 vengono da maggior deficit, 8,6 da tagli e nuove entrate, diciamo un terzo tagli e due terzi nuove entrate. E al netto questo delle misure per disinnescare l'aumento dell'IVA, che valgono da sole 16 miliardi, 15 miliardi e 700 milioni, si capisce già che la manovra in sé si riduce a 4 miliardi che andranno distribuiti al rinnovo del contratto degli statali, 1 miliardo e 8, 2 miliardi, il taglio del cuneo per gli under 29 dei contributi, soprattutto da quello che abbiamo capito, arriverà, lì ci sarà 1 miliardo e 1 miliardo e 200 milioni per i fondi per l'industria 4.0. Anche di questo parleremo, poi come sempre la borsa, vi ricordo che oggi Francoforte è chiusa, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e come sempre la diretta di Focus Economia su Facebook. E all'interno dell'approfondimento che avremo dopo le 18 sulla manovra, su quello che è il documento economico-finanziario sulla manovra che si delinea, faccio notare come nei primi 6 mesi l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL è stato del 2,4%, migliora sui 6 mesi, in leggero peggioramento sul trimestre. L'Istat ha rivisto il PIL del primo trimestre a più 0,5, nel secondo più 0,3, leggermente invece a ribasso più 0,4 più 0,3 le previsioni sui prossimi trimestri, e invece la propensione al risparmio delle famiglie, ossia il rapporto tra quanto viene messo da parte e il reddito lordo disponibile, nel secondo trimestre è stata pari al 7,5%, è il livello più basso dalla fine del 2012. Ma questo deriva, secondo quanto scrive l'Istat, da una crescita della spesa per consumi finali più sostenuta rispetto a quella registrata per il reddito. Sulle invece notizie di carattere internazionale, oggi segnalo un rapporto del Fondo Monetario Internazionale che dice: attenzione, i debiti delle famiglie a livello globale hanno continuato a crescere negli ultimi 10 anni, ma se nel breve termine l'aumento del debito fa bene alla crescita, nel medio termine bisogna rientrare. Nel breve termine l'aumento dei debiti è associato a una più alta crescita, a una più bassa disoccupazione, ma gli effetti si invertono nel corso dei 3-5 anni successivi. Per prevenire una nuova crisi occorre monitorare attentamente le condizioni finanziarie delle famiglie, compresi i dati sul credito aggregato. E vabbè. Una notizia invece, veniamo all'Europa, appena battuta dalle agenzie, che è nel solco di un tema che stiamo trattando da settimane intere. Allora, la Commissione Europea dovrebbe presentare domani ad Amazon il conto delle tasse non pagate in Lussemburgo grazie all'accordo di tax ruling di cui ha beneficiato per 10 anni. Attenzione, questo non è esattamente il tema su cui stanno battendo Spagna, Francia, Germania, Italia, di arrivare a un accordo su dove devono pagare le tasse WhatsApp, Amazon, Google, Facebook, Twitter, me ne mancano Airbnb e TripAdvisor, abbiamo sempre citato questi come i casi più clamorosi. Questo è il tema che stanno portando avanti i paesi più grandi, e cioè tu le tasse devi pagare dove fatturi, non dove hai la sede legale. Però questo è un tema, diciamo, correlato. L'anno scorso ricorderete che l'Unione Europea chiese all'Irlanda di recuperare da Apple 13 miliardi non pagati. Quindi cosa fa Bruxelles? Dice: tu non potevi fare quegli accordi Stato con soggetto privato, devi recuperare quei soldi. Poi l'Irlanda, se non ricordo male, decise di non recuperarli comunque, una specie di... uno, per carità, se ci sta dentro nelle casse pubbliche va bene, ma è quantomeno, diciamo, fastidioso vedere che non solo tu vai a pagare le tasse là dove ti conviene e non là dove fatturi, contrariamente a quello che fanno i comuni mortali, ma che per di più nei luoghi in cui vai a pagarle, guarda caso Lussemburgo e Dublino, ci sono pure degli accordi che la Commissione Europea rifiuta, si chiamano appunto tax ruling, in cui sostanzialmente io metto d'accordo con te per farti pagare delle tasse ancora più basse purché tu le paghi da noi. Allora, capito, è Apple, ho dimenticato Apple, certo c'è anche Apple. E insomma, l'anno scorso appunto proprio Apple fu obbligata a pagare 13, o meglio lo Stato irlandese fu chiesto di farsi dare da Apple 13 miliardi, che poi invece Dublino non chiese. c'è accordo tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione Europea invece sul nuovo sistema di calcolo dei dazi antidumping, ossia contro chi produce sotto il livello di costo, andando a far saltare il mercato in maniera scorretta, che si applicherà anche alla Cina. Lo ha annunciato la presidenza, che è estone, dell'Unione Europea, che ha condotto i negoziati. Dunque, l'intesa trovata non carica nessun ulteriore onere sulla prova alle imprese europee, come richiesto dall'Europarlamento, e mantiene l'attuale livello dei dazi sulle importazioni. Ha detto il ministro estone Paolo Urve, dobbiamo proteggere gli interessi dell'industria europea. Qualcuno mi chiede ancora della manovra. Da quello che abbiamo capito, il Ministero dell'Economia e Finanze dice che appunto vi saranno 600 milioni per la lotta alla povertà e i fondi per gli statali. Padoan ha citato anche la web tax, ricordando che il clima in Europa è cambiato. Ma ripeto, dateci un po' di tempo, arriveremo al tema dopo il GR delle 18. E adesso, prima del tema d'approfondimento che sta tra la Catalogna e Londra, tra la Catalogna e la Brexit, vorrei aprire un brevissimo approfondimento su un tema, anche questo che ci sta a cuore, il trasporto su gomma, ma anche trasporto su rotaia. Perché? Perché oggi c'è stato un appuntamento importantissimo a Milano, proprio per il mondo dei binari, il mondo del trasporto su ferrovia, si chiama Expo Ferroviaria, lo ha seguito la nostra Roberta Pellegata, ma sono arrivate anche alcune novità dai due principali soggetti, oserei dire, no, non sono gli unici, ma i due principali, da un lato appunto Trenitalia e dall'altro invece NTV Italia, quindi Italo. Devo dare la borsa, giustamente mi ricordano gli ascoltatori. Allora, il peggior titolo in questo momento tra quelle maggiore capitalizzazione è Ferragamo, meno 3,40, Enel meno 1,1 come Ubibanca Eterna, l'1% lo perde Buzzi Unicem, ma anche Unicredit. Fronte opposto, UX Entraporté più 1,70, Atlantia pure, Saipem più 1,30 come Exor, l'1% lo guadagna Moncler, lo 0,80 Ferrari e Campari. Euro su dollaro a quota 1,17, dicevo Francoforte chiusa, Parigi guadagna lo 0,40, Dow Jones più 0,30 come Londra. E allora 349-238-6666 per sms e whatsapp, apriamo questo tema in breve, ma le novità oggi presentate a Expo Ferroviaria, proprio novità che riguardano tutti noi, perché quando parliamo di nuovi treni sia per Italo che per le Ferrovie dello Stato, che per Trenitalia per essere più precisi, sono cose che poi ci riguardano da vicino. Dicevo, due presentazioni in parallelo praticamente questa mattina, una di due concorrenti, Trenitalia, quindi Gruppo FS ed Alstom hanno presentato ad Expo Ferroviaria un treno che si chiama Pop, un po' come la cucina del nostro Davide Oldani, va di moda il termine Pop. Comunque, Pop è il nuovo treno per i pendolari, la prima carrozza è stata visitata anche dal ministro Graziano Del Rio, ministro dei trasporti, insieme alla presidente delle Ferrovie dello Stato Gioia Ghezzi e all'amministratore delegato di FS Renato Mazzoncini. La fornitura riguarda 150 treni elettrici, quasi 1 miliardo di investimento, le prime consegne arriveranno a inizio, cioè tra più di un anno, inizio 2019. La caratteristica principale di Pop sta nella possibilità di essere configurato in base alle richieste della regione, sappiamo che infatti l'accordo è sempre con il trasporto regionale, che lo metterà in servizio, quindi modulare, una specie di treno su misura. Cosa devono aspettarsi i pendolari? Non sempre essere buoni, anzi spesso scontenti del servizio. Lo ha chiesto la nostra Roberta Pellegata proprio al numero uno della Ferrovie dello Stato, Renato Mazzoncini. Devono aspettarsi una vera e propria rivoluzione, perché l'investimento che sta facendo Trenitalia sulle flotte regionali è comparabile a quello che è stato fatto quando è stata lanciata l'alta velocità, in termini, diciamo, numerici anche molto superiore, che ovviamente le tratte regionali sono molto superiori. Quindi 5 miliardi di investimento almeno nei prossimi anni si sommano ai 200 treni nuovi messi in servizio tra il 2014 e il 2016. Andiamo entro il 2021-22 a un 70% della flotta italiana nuova, e il resto dei treni vengono comunque revampizzati, sono treni che hanno un'anzianità massima di 15 anni, quindi ancora in ottime condizioni, e quindi l'obiettivo è dare una flotta omogenea con il massimo dello standard di qualità oggi presente sul mercato. Vedo ascoltatori molto preparati, e come sempre qualcuno mi fa notare che i nuovi treni pop seguono i modelli minuetto, swing e jazz. Ho capito benissimo, allora mi faccio fare la battuta: i pendolari vorrebbero anche il modello rock, visti ogni tanto i ritardi sulla rete, non sempre imputabili all'FS, anzi anche gli accordi con le regioni. Ma l'altro tema grosso che riguarda l'FS invece è il piano industriale del gruppo rispetto alla quotazione in borsa. Ha detto resta invariato. Sempre Renato Mazzoncini e sempre al microfono della nostra Roberta Pelegatta, visto che invariato rispetto a uno slittamento già avvenuto, perché sappiamo, l'abbiamo raccontato, che della quotazione si parlerà nel 2018. Se voi guardate il piano industriale che abbiamo presentato l'anno scorso, alla chiusura avevamo ipotizzato una quotazione del 30% delle Frecce. Non l'abbiamo collocata temporalmente proprio perché ci sono delle variabili esogene che sono legate ai dispositivi normativi necessari per poterlo fare. Quindi il nostro piano industriale è invariante rispetto all'ipotesi di quotazione, anche perché comunque la quotazione delle Frecce semmai sarà una questione più per rendere più aggressive le Frecce sul mercato, perché dal punto di vista economico è evidente che i soldi che possono arrivare al gruppo sono molto modesti rispetto al totale degli investimenti. Stiamo parlando di 100 miliardi di investimenti in questo piano industriale e di un'ipotesi, voglio dire, di quotazione delle Frecce che può portare qualche punto percentuale rispetto a questi 100 miliardi. Quindi è evidente che il piano è totalmente invariante rispetto alla tematica della quotazione o meno. E poi, dicevo, quasi in parallelo, il concorrente NTV, cioè Italo, ha presentato il nuovo pendolino Evo. Ci ha tenuto a ricordare il presidente di Italo, di NTV, Luca Cordero di Montezemolo, che è tutto interamente prodotto in Italia, cioè a Savigliano, dove la Alstom ha una sede importante, viene prodotto il treno, i vagoni, mentre la parte motrice viene prodotta al Sesto San Giovanni. E poi ha elogiato le doti, beh, insomma, è chiaro, sto dicendo, è il treno più moderno d'Europa. E poi ha ricordato come l'impresa di far concorrenza alle Ferrovie dello Stato 5 anni fa fosse solo un progetto sulla carta. Negli ultimi anni dobbiamo dare atto che con l'arrivo di un arbitro dell'autorità dei trasporti le cose sono molto migliorate per garantire delle regole del gioco, perché poi noi vogliamo giocare con delle regole chiare. Se penso che 6 anni fa siamo partiti da un foglio bianco dove non c'era niente e oggi abbiamo già 25 treni, ne arrivano altri 12, questo permetterà di avere ogni 30 minuti un treno da Milano a Roma. Le cose vanno bene e noi guardiamo con grande attenzione anche al mercato europeo. Detto questo, siamo contenti di aver portato in Italia prezzi migliori, servizio migliore, quindi anche le ferrovie, non dico ci dovrebbero ringraziare, ma quasi, per il miglioramento, lo dico con rispetto logicamente, crescita del mercato e soprattutto dare possibilità ai viaggiatori di scegliere. Questo è il motivo per cui c'è stato questo grande aumento di persone che viaggiano con gli treni. E poi il ministro Delrio, che tiene assieme tutto, infatti non poteva né parteggiare per uno né per l'altro, e dice: infatti mi complimento con tutti i gruppi, sostanzialmente appunto FS e NTV, per le novità presentate all'Expo Ferroviaria. Questa esperienza della concorrenza in Italia è stata un'esperienza molto positiva, così come molto positivo il fatto che Alstom abbia scelto di potenziare i suoi stabilimenti italiani, e questo davvero grazie. Il prodotto è davvero un prodotto bellissimo, complimenti, complimenti. Siamo molto felici e orgogliosi di poter vedere, oggi abbiamo aperto, diciamo, abbiamo fatto vedere anche i nuovi treni che arriveranno sulle linee regionali. Come ho detto, c'è un grande piano industriale di rinnovamento del parco rotabile. Certamente salutiamo con soddisfazione e con gioia davvero questi nuovi pendolini che si chiamano Evo, che sono un'evoluzione dei precedenti, ma devo dire che è un'evoluzione molto positiva. Ecco, complimenti agli imprenditori, complimenti anche, se mi permettete, all'autorità di regolazione dei trasporti con cui abbiamo lavorato per rendere le condizioni di concorrenza adeguate a un grande paese europeo. Questo treno ha la caratteristica di essere totalmente interoperabile in tutti i paesi europei, quindi anche un treno pienamente europeo, e questo insomma è una ulteriore soddisfazione per tutti noi che l'Italia offra un prodotto totalmente europeo. E anche il ministro Del Rio, così come il presidente di NTV Montezemolo, erano al microfono della nostra Roberta Pelegatta. Adesso andiamo su meteo, pubblicità, raccontate come sempre facciamo nella prima parte la cronaca, in breve andiamo sugli approfondimenti. Allora, il titolo che hanno usato Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per il blocco è Cata Brexit. Sì, si può fare anche Brexit Cata, Cata Brexit, insomma, dalla Catalogna alla Brexit. C'è un'Europa abbastanza al guado e che sta a guardare, ma non è detto che stare a guardare sia la soluzione migliore. 349-238-6666 per sms, whatsapp, Cata Meteo. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. minuti, riprende Focus Economia con la base afghana. Allora, stiamo parlando del rischio balcanizzazione, diciamo, non andrei al big game e diciamo ai giochi orientali, però vabbè, prendiamoci anche la base afghana. Devo dare solo una notizia che è uscita poco fa, come atteso, però è importante darla. Rinviati a giudizio sulla Popolare di Vicenza. La Procura di Vicenza ha chiesto oggi il rinvio a giudizio per l'ex presidente Gianni Zonin e per altri 6 dirigenti della Banca Popolare di Vicenza. L'accusa è aggiotaggio e ostacolo alle attività di vigilanza. Con Zonin, ha spiegato il procuratore Antonio Cappelleri, è stato chiesto anche il processo per Giuseppe Zigliotto, Samuele Sorato, Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta, Paolo Marin, Massimiliano Pellegrini e la stessa Banca Popolare di Vicenza. Così adesso si andrà a vedere anche le carte, e non è solo un modo di dire, proprio le carte vere, visto che lì Zonin accusa Sorato di essere stato lui il dominus. Vabbè. Allora, Cata Brexit, qualcuno mi ha scritto Cata Brexit sì, perché qua cerchiamo di tenere assieme il tema della Catalogna con la posizione di oggi di Bruxelles sulla Brexit. Allora, potremmo dire, nel salutare la mitica Adriana Ceretelli, buonasera mitica. Buonasera a tutti. Oh, sento te più pimpante di questa Europa, perché tu giustamente oggi su Sole 24 Ore scrivi se l'Europa rimane a guardare. Mi sembra che se, come ascolteremo dopo, oggi Juncker si è intervenuto e anche Barnier sulla Brexit, ci sono due silenzi assordanti. Uno però che può essere parte di una tattica, e mi riferisco al re spagnolo, ma quello è un caso, diciamo, che riguarda la monarchia spagnola. L'altro riguarda l'Europa, e tu dici, insomma, sostanzialmente, intanto c'è stata una prima sorpresa perché le elezioni tedesche dovevano sancire la stabilità, invece hanno creato ulteriore fragilità, indebolendo anche Angela Merkel, e hanno fatto dell'estrema destra il terzo partito del Bundestag. E poi Rajoy, notoriamente, si può usare il termine democristiano senza offesa, cioè un uomo abbastanza attento agli equilibri, che sta lontano dalle fughe in avanti, è cascato quantomeno in una, non dico una trappola, ma insomma c'è cascato, perché le immagini poi della polizia spagnola fanno più danni di tante dichiarazioni e analisi. Che cosa doveva fare secondo te l'Europa? Intervenire come pompiere prima? Può ancora intervenire come pompiere adesso? Allora, l'Europa formalmente non può fare niente, perché diciamo, questo tipo di vicende sono di esclusiva pertinenza degli Stati membri. Quindi l'Europa non ha assolutamente, giuridicamente, nessuna cosa da dire. Politicamente però il discorso è diverso. nel senso che la Catalogna apre un problema serio all'interno di uno dei quattro grandi paesi dell'Europa, e non solo perché destabilizza la Spagna, ma perché può avere un effetto domino sul resto degli stati europei che hanno spinte separatiste di diverso tipo, ma comunque ce le hanno. L'Europa ieri ha fatto sentire la sua voce, nel senso che ha e insieme alla Germania del resto, per bocca del suo vice ministro degli esteri, in sostanza hanno richiamato Rajoy all'ordine, dicendo, e la Catalogna pure, l'uno dicendo che va rispettato in tutti e per tutto lo Stato di diritto e la democrazia, quindi da una parte l'ordine e la legalità, dall'altra il diritto dei popoli di esprimersi. Il problema è che la questione catalana è una questione antica ed estremamente complessa, dove, se si vuole, a creare il patatrac sono stati due estremismi in campo. Uno, l'estremismo di Rajoy, che parandosi dietro la legalità e la Corte Costituzionale, che aveva inviato la Guardia Civile a Barcellona, ritiene di essere nel giusto e quindi che non sia negoziabile la questione catalana. Dall'altra, i catalani che non ritengono negoziabile la loro aspirazione all'indipendenza. Sì, diciamo, i due dovranno assolutamente incontrarsi, perché non hanno alternative, secondo me. Una dichiarazione di indipendenza da parte della Catalogna aggraverebbe la crisi, nel senso che la Costituzione consentirebbe a Rajoy di destituire il governo catalano e commissariare la Catalogna, cosa che porterebbe naturalmente all'aggravarsi delle tensioni. Quindi sì, ieri l'Europa e la Germania hanno detto a tutte e due: usiamo il buon senso e cerchiamo di venirne fuori. La via d'uscita naturalmente è la riforma della Costituzione spagnola e certo, la concessione di maggiori margini di autonomia alla Catalogna. Allora, io penso che quella sarà la fine della strada, perché sarebbe insensato batterne delle altre. Allora, d'accordissimo con te che, diciamo, come sempre la storia è fatta di masse, di popoli, ma anche di persone, e qui abbiamo visto, posso usare l'insipienza, la non elevata statura, lungimiranza politica sia di Rajoy che di Puigdemont, perché uno ha giocato a andare il leader catalano allo scontro fino in fondo, l'altro è sembrato, capito, dare tutti i pretesti possibili per creare il caso. I nostri vecchi democristiani, quelli veri, probabilmente l'avrebbero ignorato un po' di più, ma sì, fatevi questa specie di kermesse, tanto non vale nulla, e soprattutto andavi avanti con delle trattative più serie per svuotare questo referendum di significato. Detto questo, qualcuno mi scrive ancora: ma perché il Kosovo sì? Ieri Alberto Negri ha fatto un'analisi impeccabile. Attenzione, lì c'era un problema di etnia, di religione, di una Jugoslavia stato molto, molto recente, anche di carattere economico, è molto diversa la situazione. Dopodiché non esiste una regola, come ricordava Adriana Celentano, non è che ci sia una regola unica, perché l'Europa ha accettato in altri casi fuori dall'Europa anche, diciamo, una ridefinizione di quello che era il precedente territorio nazionale. Faccio notare che la Jugoslavia però non lo userei come esempio, visti i centinaia di migliaia di morti e i campi di concentramento Srebrenica in giù che abbiamo testimoniato in quegli anni, quindi non lo userei come l'esempio di come si fa, diciamo, dalla Bosnia e Erzegovina al Kosovo, di come si crea un'indipendenza. Adriana, da questo punto di vista tu ritieni che, insomma, a questo punto il messaggio che è arrivato è chiaro. Io vorrei farti ascoltare posizione di Salvatore Guillermo, che è direttore del Dipartimento Economia del Foment del Trebal, che è la Confindustria catalana. Io credo che lo che esige la Junta, suppongo che va a continuare facendo, è un principio di coerenza. Il presidente e la Giunta del Foment del Trebal hanno sempre insistito nella necessità di dialogo, negoziato e patto. Questo all'interno della cornice legale. Nessuno comprende la democrazia senza lo Stato di diritto. Sono le due facce della stessa moneta. Dobbiamo cercare la via migliore per canalizzare la questione politica catalana, che devono risolvere soprattutto i politici. Occorre un dialogo franco e sincero da entrambe le parti, spagnola e catalana, per dare una risposta alla questione indipendentista. Dal catalan e dal conjunto della Spagna in la dar risposta a lo che ha sido la questione catalana. Sì, qualcuno mi fa notare che la Repubblica Ceca e Slovacca si sono separate in maniera molto più neutra, e anche questa è un'altra storia. Questo appunto Salvador Guillermo, a microfono di Sergio Nava, che è stato nostro inviato a Barcellona. La Catalogna, lo ricordo, è la regione più ricca della Spagna, fa il 20% del PIL, 220 miliardi di euro, oltre 600.000 aziende, PIL pro capite di 30.000 euro contro una media spagnola di 24.000 euro. Guardate bene la mappa, perché anche le dimensioni geografiche, le estensioni geografiche della Catalogna ne fanno un problema. Adesso a Spagna non ho la misura sotto mano, ma siamo quasi a due volte Lombardo-Veneto se uno la guarda sulla cartina geografica, cioè è una regione molto lunga lungo la costa. Adriana, per chiudere sulla Catalogna, dopo il traffico, invece farti commentare la Brexit. A un certo momento, secondo te, l'escamotage potrebbe essere convocare un tavolo terzo e magari farlo fare da un soggetto appunto terzo, come potrebbe essere l'Europa o una figura di garanzia? Perché a me non sembra che i due riescano in questo momento, nel cul de sac in cui sono finiti, a trovare la forza per ripartire con il dialogo. Ma io trovo che Puigdemont, al di là del fatto che deve fare la sua parte, deve dire che il risultato è un risultato vincolante, eccetera, perché altrimenti si presenterebbe a mani nude al tavolo della trattativa con Rajoy. Io credo che l'Europa stia facendo dietro le quinte una pressione, diciamo, soverchiante su entrambi. L'Europa non vuole grane, non vuole storie di questo genere dentro i suoi confini, perché i paragoni col Kosovo e la stessa Repubblica Ceca sono, se si vuole, mal posti, nel senso che i contesti storici, istituzionali, sono totalmente diversi. La tradizione europea è altra cosa rispetto a quella jugoslava, insomma non si può fare questo tipo di paragone, secondo me. Detto questo, io credo che la mediazione europea, più che una mediazione, diciamo, sotto la luce del sole, sarà una mediazione dietro le quinte, per cercare di fare ragionare e incontrare questi opposti estremismi. E io credo che Rajoy e la Spagna abbiano tutto l'interesse ad anteporre l'interesse collettivo a quello regionale o a quello castigliano, perché non ci dimentichiamo che dentro questa storia c'è molto machismo castigliano, c'è questo atteggiamento sprezzante della Castiglia verso la Catalogna, ma questa è storia di lunga pezza. Quindi io credo che la mediazione si farà, ma si farà appunto come pressione per farli ragionare, per dire: ma che cosa volete fare? Andare in fondo alla classifica dei paesi europei quando siete il quarto tra i grandi? Volete andare a una crisi dei mercati, gli spread che si rialzano? D'altra parte i mercati si sono mossi. Cioè, voglio dire, io penso che alla fine tutti e due capiranno che è stupido se si arriva a una riforma della Costituzione che dia maggiori autonomia alla Catalogna. Perché, insomma, perché fare tutto questo? Allora, Adriana, resta con noi ancora un minuto il traffico e poi un tuo commento sulla Brexit. Non che sia successo qualcosa, il problema è che non è successo ancora niente. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Focus Economia. When it comes to Brexit, we still cannot talk about the future. Per ciò che riguarda la Brexit, non possiamo ancora parlare di futuro con una certa chiarezza. Le condizioni dell'articolo 50 e il mandato che ci hanno affidato i 27 leader sono molto chiari. Innanzitutto ci deve essere un accordo sui termini del divorzio e solo dopo vedremo se è possibile avere buone relazioni tra di noi. Il discorso del primo ministro May a Firenze ha avuto un tono ottimistico, ma i discorsi non sono posizioni negoziali. C'è ancora lavoro da fare. Non abbiamo ancora compiuto i sufficienti progressi richiesti. I negoziatori hanno fatto progressi sul fronte dei diritti per i cittadini, ma resta ancora da trovare un accordo sull'indispensabile ruolo della Corte di Giustizia europea nel garantire questi diritti. Sono lieto che il primo ministro May e la sua squadra abbiano riconosciuto che il Regno Unito ha obblighi dal punto di vista finanziario e che li deve rispettare. Il diavolo, come sempre, sta nei dettagli, ma i contribuenti dei 27 paesi non devono pagare per la decisione britannica. Adriana Ceretelli, mi sembra invece che sul fronte Brexit la situazione sia molto chiara, cioè la distanza è rimasta esattamente la stessa, non c'è, poi il commissario, quello, il capo negoziatore Michel Barnier ha detto non ci sarà né vendetta né punizione, ma insomma non stiamo facendo passi in avanti, Adriana. Ed è così, infatti arriveremo al vertice di fine ottobre, del 19-20 ottobre, che avrebbe dovuto, diciamo, decidere che ci fossero progressi significativi nel negoziato, constatare questo fatto e quindi da lì proporre un accordo anche guardando al futuro, al periodo di transizione. Tutto questo non accadrà proprio perché non si ritiene che finora la Gran Bretagna abbia negoziato seriamente, per dirla come aveva detto lo stesso Barnier qualche settimana fa. Ma Theresa May che è venuta a fare a Firenze? Cioè, capisco, dare sciacquare i pani in armi. Ha lanciato l'ennesimo ballon d'essai, ma nello stesso tempo ha a casa la rivolta. C'è Boris Johnson che sfida la sua leadership, c'è il partito conservatore che sembra stringersi intorno invece alla sua premiership. Da una parte gli inglesi non hanno ancora chiarito che cosa vogliono dall'Europa, continuano a lanciare delle proposte, ma nello stesso tempo hanno un problema interno di creare e aggregare il consenso su qualsivoglia idea di rapporto futuro con l'Europa. E questa idea chiara nella loro testa non c'è ancora, ma soprattutto non c'è un consenso chiaro, certo, alla May. Quindi è una situazione un po' paludosa. Dicevo che il problema in questo caso c'è la Gran Bretagna. L'Europa ha fatto, onestamente, l'abbiamo sempre criticata quando ci sembrava dovesse essere criticata, ma Bruxelles ha fatto delle richieste abbastanza chiare come base negoziale. Poi uno inizia a trattare. Il problema è che se tu non sai ancora come britannico, se la vuoi dura, morbida, o sto zitto sulla terza possibilità perché non voglio anticipare il programma che ci segue, allora è lì che devi deciderti come vuoi fare sta Brexit, la vuoi soft o la vuoi hard, tutto qui. E la colpa in questo caso, da quello che noi vediamo, non è certo di Bruxelles. La Gran Bretagna, non dico che continui a cambiare idea, ma passa da un'idea più morbida a un'idea più dura. Grazie alla mitica, quindi, ad Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Scrive un ascoltatore, uno mi scrive panico, dov'è che era bellissima, panico in pasticceria, la crema catalana non vuole più stare con il pan di Spagna, e va bene, anche questo è vero. Un altro ascoltatore mi scrive invece, ospiti più brillanti della Ceretelli, guardi, non mi tocchi la mitica, stiamo attenti, e comunque ha ragione, cercheremo ospiti più brillanti, adesso che ho un numero la invito. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, dopo il GR24 le borse e l'approccio alla legge di stabilità, visto che oggi ci sono state le audizioni in Parlamento di vari esponenti del mondo economico, Banca d'Italia, ma non solo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. 18:08 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Commentiamo adesso la borsa e poi il DEF, o meglio le audizioni in Parlamento per quello che è il documento che serve come testo base per la prossima legge di bilancio. Allora, la borsa, dicevamo, chiusa a Francoforte, meno 0,12% Milano, Parigi più 0,30%, Dow Jones più 0,30%, Londra più 0,40%, Madrid invariata. Su Milano hanno pesato soprattutto alcuni titoli energetici, Enel meno 1,17%, Terna meno 1,13%, tranquilla invece Eni che guadagna lo 0,70%, tra chi ha perso anche UbiBanca meno 1,14%, poi Ferragamo meno 3,30%, Buzzi meno 1%, Leonardo meno 1%, Unicredit meno 1%, Italgas meno 0,80%, Atlantia più 1,90%, Iux più 1,40% invece, e Moncler più 1,30, Saipem più 1,1, Exor più 1, Ferrari più 0,90. Ciao Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Dunque, Wall Street in realtà, pur crescendo di uno 0,30, ha aggiornato anche nuovi massimi oggi. Mentre andiamo sull'Italia, Atlantia più 1,90 da un lato, dall'altro Ferragamo. Sì, Atlantia diciamo corre più 1,9% col mercato che scommette sulla buona riuscita dell'offerta pubblica su Abertis, l'operatore autostradale spagnolo che da tempo è nel mirino del gruppo autostradale controllato dai Benetton. Ieri il governo spagnolo ha garantito la propria imparzialità, allo stesso tempo l'amministratore delegato di Atlantia Castellucci si è detto fiducioso sul buon esito dell'operazione, di qui gli acquisti sul titolo. Per quanto riguarda invece Salvatore Ferragamo, è un brutto passo falso, è ceduto oltre il 3%, qui ci sono un po' di dubbi da parte del mercato su quella che è l'esecuzione del piano industriale. Ferragamo si era già avvalsa della possibilità di non pubblicare la prima trimestrale, poi era uscita la semestrale sostanzialmente in linea con l'attesa del mercato, e ora nuovamente il mercato evidentemente ha ancora dubbi sul procedere del business della Maison di Moda. Ancora, per quello che riguarda altri titoli, diciamo bene i petroliferi, c'è un petrolio che si mantiene, non gli energetici in senso stretto, ma i petroliferi sì, Saipem più 1,16, appunto Eni più 0,70, c'è un petrolio che si mantiene sopra i $50, parlo del WTI, $50,4 al barile. Abbiamo visto anche Iux forte oggi. Eh sì, su Iux abbiamo un po' di valutazioni positive da parte poi degli esperti, insomma degli analisti, valutazioni per quello che possono valere di acquistare il titolo. Più interessanti sono le motivazioni, la nuova piattaforma che è stata lanciata da Iux per le vendite online, secondo gli analisti dovrebbe dare risultati migliori del previsto e dare un livello di servizio superiore a quello degli altri principali concorrenti europei. Quindi la conclusione è che diciamo che i target fissati da Iux dal 2018 in poi sono molto solidi, questo sempre secondo il parere degli analisti, in particolare degli analisti Jefferies. Andiamo fuori dal listino principale, Biancamano più 30,60 miglior titolo, Blue Financial Community più 21,20, Centrale del Latte d'Italia più 19,70%, il fronte opposto vede invece Gefran meno 17%, Landi Renzo meno 16%, Reply meno 8,90%. C'è una notizia di mercato su Centrale del Latte d'Italia. Una bella notizia per la società, ha chiuso un accordo con Alibaba, che come sappiamo è un gruppo cinese che è un leader nel mondo per il commercio online. Cosa prevede questo accordo? Prevede il fatto che sostanzialmente i prodotti di Centrale del Latte d'Italia potranno essere distribuiti su una delle piattaforme di Alibaba, il che significa in parole povere che avranno un mercato potenziale di oltre 460 milioni di consumatori all'anno. Direi un bel salto per la società, che è stata quindi evidentemente premiata dal mercato. Allora, grazie anche a Ciao Condina di Radio Corriere Sole 24 Ore. Grazie a voi, buona serata. Grazie, ciao. E andiamo all'ultimo tema, che è abbastanza articolato. Oggi, da un lato, ci sono state le audizioni in commissione parlamentare, audizioni parlamentari sul DEF, la prossima legge di bilancio. Tra l'altro le nuove previsioni nella nota di aggiornamento del governo al DEF vedono il PIL quest'anno all'1,5%, ma anche nei due anni successivi, con una discesa del deficit inferiore al previsto, l'anno prossimo si fermerà all'1,6% e ma libererà, diciamo, poco più di 10 miliardi destinati a evitare in gran parte l'aumento dell'IVA. Anche nella manovra finanziaria che si sta cercando di realizzare, che adesso si inizia ad approntare, la maggior parte della torta è dedicata a evitare l'aumento dell'IVA, perché su 20 miliardi quasi di manovra 15 miliardi e 600 milioni servono per disinnescare appunto le cosiddette clausole di salvaguardia, cioè se noi non riduciamo il deficit di un certo livello in automatico scatta l'aumento dell'IVA. Le clausole di salvaguardia, se non trovi la copertura per quello, ma e di manovra vera sono solo 4 miliardi, manovra vera vuol dire nuovi fondi, nuove iniziative. Su questo dicevo varie audizioni, vorrei ascoltare in primis il ministro Padoan che parla del percorso con le forze di governo, ma soprattutto dice attenzione, se ci dovesse essere un'eccessiva restrizione sul fronte dell'aggiustamento dei conti pubblici, questo, cioè un atteggiamento troppo restrittivo, troppo rigoroso, questo metterebbe a rischio la ripresa e la coesione sociale del paese. Va interpretata la decisione del governo di portare allo 0,3% l'aggiustamento del saldo strutturale nel 2018 dallo 0,8% previsto dal DEF. In linea con quanto illustrato nella comunicazione del governo alla Commissione europea del maggio scorso, un'eccessiva restrizione fiscale metterebbe infatti a rischio la ripresa economica e la coesione sociale nel Paese. La prosecuzione dell'azione di graduale consolidamento, viceversa, a patto di continuare ad attuare il programma di riforme strutturali, consentirà di proseguire nel percorso di riduzione del deficit di bilancio e del rapporto debito-PIL. L'obiettivo di indebitamento per il 2018 si colloca così all'1,6%, tale da far comunque segnare un'accelerazione del processo di riduzione del disavanzo. Quindi abbiamo un Padoan che mette in guardia da una manovra troppo restrittiva. Dall'altro la Banca d'Italia, sempre in audizione, dopo aver detto che il calo del debito è un imperativo per l'Italia ed è alla nostra portata, aggiunge però, attenzione, la politica di bilancio si deve muovere in un sentiero stretto. Sentiero stretto ormai è la battuta che viene attribuita a Padoan quasi come uno stereotipo, il sentiero stretto tra mantenere rigore sui conti pubblici e non penalizzare la crescita. Dicevo, la Banca d'Italia dice sì, il sentiero è arduo ma è oggi meno angusto. La politica di bilancio si deve muovere lungo un sentiero stretto tra l'esigenza di non soffocare la ripresa congiunturale e l'imperativo di ridurre il debito. L'ha più volte ricordato anche il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In questo momento il sentiero, pur sempre arduo, è un po' meno angusto che in passato, grazie alle favorevoli condizioni della congiuntura e dei mercati. Allora, qui stiamo giocando leggermente con le parole, è arduo ma meno angusto, uno dovrebbe stare lì a prendersi lo Zanichelli e capire arduo sì ma meno angusto, cioè sempre in salita ma meno stretta, potremmo dire che con un linguaggio da montagna è una salita ma il sentiero è meno stretto in questa salita, capito? Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, eccomi. No, siamo, diciamo, alle metafore così alla Bonatti, sentiero è arduo ma meno angusto. Sì. Vabbè, insomma, sempre di sentiero in salita si tratta, questo almeno l'abbiamo capito. Ho visto che invece Alfano, il ministro Alfano, ha dichiarato che la maggioranza per quello che riguarda la legge di stabilità c'è. La maggioranza ha i numeri, ha detto Alfano, penso che sia responsabilità di tutti assicurare che questo paese abbia una stabilità politica nel momento in cui arrivano dati economici positivi. Dopo il traffico invece ti chiederò, dovrai aiutarci nell'arduo e angusto compito di spiegarci come si fa a fare una manovra di stabilità, manovra finanziaria, sì, disinnescando le clausole di salvaguardia, ma dando anche un po' di respiro alla crescita. Oggi in prima pagina su Sole 24 Ore il presidente Confindustria Boccia ricorda come sia tutt'altro che da abbandonare il tema delle riforme che non sono ancora compiute e soprattutto che non si può perdere l'occasione che ci si presta davanti, nel senso, i dati sono tutti in miglioramento, ma attenzione a sedersi a sedersi pensando che il grosso sia fatto. Facci capire tu cosa vuol dire un sentiero non così stretto ma arduo ma non angusto dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Allora, Dino Pesole, cosa vuol dire non stretto ma arduo? Allora, sicuramente il sentiero è sempre in salita, è un po' meno in salita, certo, ma questo dipende dal fatto che fortunatamente l'economia italiana crescerà un po' di più rispetto a quanto era possibile prevedere qualche mese fa, e dunque questo è sicuramente una buona notizia, rende il compito meno arduo. Fermo restando che noi abbiamo, come voi avete già detto prima, abbiamo il problema di dover evitare che aumenti l'IVA, e questo non è propriamente uno scherzo, perché se fosse diversamente i 3 punti di aumento di IVA dal 1 gennaio avrebbero un effetto recessivo, quindi ha ragione Padoan nel dire che in questo modo si evita di fare una restrizione ancora più forte. Allora, cosa bisogna fare e se ci sono margini per fare qualcosa in più? Allora, se facciamo 2 conti, dei 19,6 miliardi della manovra abbiamo detto che 15,7 se ne vanno d'incanto perché dobbiamo evitare l'aumento dell'IVA. Quello che resta serve per finanziare le spese cosiddette indifferibili, facciamo un esempio il finanziamento delle missioni italiane all'estero, e poi ci sono questi 3,8 miliardi che è la dote per la crescita, chiamiamola così, certamente insufficiente. Io credo che ci siano dei margini in Parlamento, ma non per aumentare la spesa, in deficit non lo si può fare perché ormai i paletti sono quelli e poi domani il Parlamento voterà a maggioranza assoluta e quindi non si può più fare. L'unica strada per potenziare la dote per la crescita è quella di provare a aumentare il finanziamento attraverso i tagli alla spesa, e oggi in commissione ad esempio il presidente della commissione bilancio Boccia ha chiesto al ministro Padoan se per caso fosse di nuovo in piedi l'ipotesi di mettere mano alle cosiddette agevolazioni fiscali. Quello ad esempio sarebbe un settore dove recuperare risorse, se si avrà la forza e il coraggio politico di metterci in mano. Probabilmente nell'ambito di 820 miliardi di spesa pubblica qualche altro margine si può individuare. Io credo che non bisogna rinunciare all'ipotesi che questa manovra possa effettivamente spingere di più il pedale sul fronte della crescita, perché sennò effettivamente si perderebbe un'occasione preziosa. Allora, mi chiedono molti ascoltatori, hanno ragione, perché poi il tempo passa e magari noi sbagliamo a dar per scontate alcune cose, ma non è possibile bloccare questo aumento dell'IVA. E Dino, forse è il caso di ricordare che le clausole di salvaguardia noi le abbiamo firmate con l'Europa. Allora, le clausole di salvaguardia sono una garanzia che nel 2015 è stata inserita nelle leggi di bilancio. Sostanzialmente di che cosa si tratta? Si dice all'Europa che laddove i nostri saldi di finanza pubblica, vale a dire il deficit, il debito e quant'altro, il fabbisogno, non rispettassero i target programmati, cioè quello che noi ci siamo impegnati a fare, in automatico scattano queste clausole. Il problema è che per renderle credibili e strutturali, queste clausole sono state introdotte per più anni. Il governo, prima Renzi e ora Gentiloni, cosa ha fatto? Le ha neutralizzate per il 2016, 2017, 2018, e purtroppo ci portiamo dietro un'eredità pesante anche nel 19 e nel 20. Dal 2020 potremo finalmente respirare, ma purtroppo questo è quello che ci capita, perché noi usciamo da un periodo di recessione profondissima. Padoan ha ricordato che dal 2008 al 2013 abbiamo perso 8 punti di PIL, questo ha avuto un'incidenza evidente sulla finanza pubblica e abbiamo dovuto attivare queste formule di garanzia, speriamo di poterle eliminare. Posso essere più malizioso di te, nel 2015 queste ci furono, tra virgolette, anche, non dico imposte, ma chieste, anche per tranquillizzare un po' i mercati, per mettere al riparo le nostre leggi di stabilità e di bilancio, la finanziaria, dall'appetito della politica, possiamo mettere così, cioè dal fatto che noi non abbiamo questa reputazione di saper osservare tutti i patti. Ecco perché, ahimè, queste clausole sono automatiche, cioè l'Europa le accettò perché disse: vabbè, se voi non ce la fate a raggiungere gli obiettivi che abbiamo concordato, perché l'Italia chiede sempre di fare un deficit un po' più alto, l'Europa un po' te lo concede, un po' no, ma quelli concordati si ritengono appunto da rispettare. Nel caso non ce la facciate, col primo di gennaio dell'anno, se vediamo che gli obiettivi non rientrano in quello che ci eravamo promessi, su cui ci eravamo accordati, scatta in automatico l'aumento di 3 punti percentuali dell'IVA, che vorrebbe dire una mazzata devastante sui consumi, perché scatterebbe in maniera appunto trasversale a tutti i consumi. Era anche, diciamo, una poca fiducia nella nostra capacità di mantenere gli accordi, forse, Dino. No, questo senz'altro, sono totalmente d'accordo con te. Per una volta io però spezzerei una lancia a favore dell'Europa, perché tutto sommato, da quando c'è questa nuova commissione, sì, mi sembra che noi abbiamo avuto non poca flessibilità, sì, quasi sì. 20 miliardi nel 2015-16, adesso ce ne danno altri 10. Allora, per una volta io proverei a spostare il ragionamento. Non sono i vincoli europei adesso a determinare la nostra politica economica, ma dobbiamo essere noi a fare le cose. Allora, come giustamente ricorda oggi il presidente Boccia sul Sole 24 Ore, non è che perché siamo alla fine della legislatura si può dire che abbiamo fatto tutti i compiti. Ci sono molte riforme che ancora devono essere portate a compimento. Ma penso alla riforma dell'amministrazione pubblica, ma anche alla riforma fiscale. Ecco, appunto, queste sono cose che però non è che l'Europa ce le impone, noi siamo obbligati a farle, perché solo in questo modo spingiamo sulla crescita e solo così si riduce il deficit e il debito, perché noi non possiamo fare manovre restrittive, ha ragione Padoan. Quindi il problema è in casa nostra ed è, secondo me, tutto politico. Sì, e la preoccupazione non solo di Boccia, ma a partire da quella del presidente di Confindustria, è che adesso più ci si avvicini, più ci si avvicinerà al momento elettorale, e il gioco lo fai però nella legge finanziaria, non solo, ma in primo luogo il grosso arriva dalla legge di stabilità, ci sia la tentazione di, posso dire così chioso sulla nostra classifica, di fare un po' come ha fatto la regione Sicilia con i forestali regionali, gli 80 euro a pioggia, sì, per adeguare, ma tutti dati a un mese dal voto. Ecco, questo è il timore, che ci sia l'assalto alla diligenza e si prometta che il paese ormai ha svoltato e quindi non ci sarà più bisogno di fare né riforme né sacrifici, né di contenere i conti, né di fare misure ad hoc mirate sui settori e sulle fasce di popolazione, a partire dai giovani che più ne hanno bisogno. Grazie anche a Dino Pesole del Sole 24 Ore. È tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo in diretta domani dalle 17 in poi, e domani Radio 24, non il sottoscritto purtroppo, ma diventerà anche maggiorenne. A domani. Radio 24, libera la voglia di fare.